Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Chat erotica gay. Ciao. Ciao. Da dove? Padova. E tu? Milano. Anni? 24. E tu? Sei piccolo. Dai, non fare il cretino. Dimmi quanti anni hai. 26. E dici a me che sono piccolo. E beh, io sono più vecchio. Hai cam? Sì. Bene. Tu che fai? In che senso? Dai, non giocare. E tu che fai? Ma te l'ho chiesto prima io. Io faccio tutto. Tutto che? Tutto, ma in cam. E tu che fai? Pure io faccio tutto, però solo in cam. Beh, allora è tutto chiaro. Sei peloso? No, non troppo, un po' sulle gambe. Tu? Pure io poco. Dai, dimmi come sei, descriviti. Alto, 1,87, magro, capelli corti castano chiaro, occhi chiari ma non chiarissimi, tra il blu e il grigio, piede 46, mani grandi. E il resto? Quale resto? Dai, non fare il finto tonto. Tu che pensi? Se tanto mi dà tanto. Ah, ok. Ottimo. Oh, bello, adesso tocca a te. Non c'è molto da dire. 1,81, castano scuro, occhi neri, direi molto magro, scarpe 45. Il resto? Beh, non mi lamento. Cioè? Mannaggia, quanto sei curioso! Vabbè, però sei di poche parole sull'argomento. Dai, che facciamo? Le vuoi due foto mie? Dai, mandamene, sono curiosissimo. Però pure tu a me, e insieme. Ok, ottimo. Oh bello, guarda, e se tu le due non me le mandi, io ti chiudo la chat. Tranquillo, non te la do la fregatura. Quando sei pronto mi dici vai e postiamo assieme, ok? Ok, vai. Insomma, no, oggettivamente non sei proprio male per niente. Mannaggia, mi sa che ci siamo letti il pensiero. Io da te mi aspettavo chissà che cosa, invece la foto più spinta è a torso nudo. Io almeno ce l'ho messa una in pantaloncini corti, tu manco quello. Dai, dai, non frignare. Ecco, questa è in pantaloncini corti. Bella, oh, ma sei proprio un bel ragazzo. Se per questo pure tu. Ma non è che ci avresti delle foto più eloquenti? Per avercele ce l'ho, ma mi vergogno. E dai, e su, e mandamole, non ti pare pregare, dai. E tu a me che mi mandi? Qui le cose devono essere alla pari. Ma io foto eloquenti non ce n'ho. Non dire bugie. Tu ce l'hai e come? È solo che vuoi le mie e non mi vuoi mandare le tue. Se non me le mandi, io le mie non te le do. Ma quelle mie sono proprio eloquenti, eloquenti. Sono foto fatte sulla spiaggia in questo gran bagno. Tu mi mandi quelle e io ti mando le mie corrispondenti. No, dai, io le mie in costume te le mando. E sono le più eloquenti che ho. Però le tue le voglio. Oh, ma tu non eri quello che faceva tutto? Beh, insomma, tutto tutto no. Ma con gli altri che ci hai fatto? Non mi piace proprio quando fai tutte queste domande, però. E dai, dimmelo, dai. Lo so che sei un campione, si sente. Accendi la cam. Per fare che? Adesso stiamo parlando. Non mi vuoi mandare neanche le foto? Qui la reciprocità è la regola. Per Ma io voglio solo vedere che faccia hai. quello è le foto, bello. Ma quella foto non è abbastanza eloquente. Dai, dimmi che ci fai con gli altri ragazzi, che poi una foto un po' più eloquente te la mando. Però me lo devi dire veramente. Lo vuoi sapere? Sì. Però Con gli altri ragazzi non ci ho fatto mai un cavolo. questo l'avevo capito. E tu? Adesso me lo devi dire. Beh, pure io, dai, su, è la prima volta. Però l'avevo capito pure io. Beh, non è che ci voleva tanto, quegli esperti vanno subito al sodo. Ma tu perché cerchi sesso in chat? Beh, qui o fai così o non si batte chiodo. Dai che c'è sempre Federica. Federica Federica chi? è una mano amica. Ah, allora anche tu sei dei nostri. Almeno non si becca malattie. Ma tu di te l'hai detto? Io, beh, lo sa solo il mio migliore amico etero. Gli altri non lo so, può darsi che qualcuno l'abbia capito. Di me invece non lo sa proprio nessuno, non mi fido a parlare di queste cose e poi se me lo sapessero succederebbe un cataclisma. Mio padre pensa che parla soltanto di donne. Il mio no, i miei forse mi accetterebbero, ma io dovrei spicciarmi a finire con l'università perché ancora non ho finito. Quanto ti manca? 5 la tesi per la specialistica. Hai quasi finito, che vuoi di più? Io ho 24 anni, devo ancora prendere la triennale. Ma tu che facoltà fai? Pure Ingegneria meccanica. tu, che combinazione! Ma noi non stiamo qua per parlare un po' di sesso. Sì, perché? Ma ti va? Almeno Beh, che ti devo dire a te? parlarne. Tu l'hai mai fatto? Insomma, una specie. Con chi? Con un amico mio fratello, ma non abbiamo fatto niente. Insieme, dico. Sono capitato in camera con lui per 7 giorni in montagna. Insieme non abbiamo fatto niente, però vederlo era proprio uno spettacolo. E praticamente, vabbè, dai, su, hai capito. E tu? Io proprio sesso a due no, però un amico l'ho spogliato. E lui si è fatto spogliare. Beh, no, insomma, ci ha organizzato uno scherzo sessuale. L'abbiamo messo in mezzo e io l'ho spogliato. E l'ho pure toccato, Mannaggia che storia. E eh. E beh, è successo 2 anni fa ormai. Dopo dopo? che? Dopo che è successo? Non è successo niente. Che doveva succedere? Finita così. E non l'ha più rivisto. Sì, tante volte poi. E E lui con te come si è comportato? come si comportava, come sempre. E tu l'amico di tuo fratello l'hai rivisto invece? Sì, ma lui è etero, c'ha cioè proprio la ragazza. Di Ci sei rimasto male? che? Che c'ha la ragazza? Ma Beh, sì. no, io lo sapevo pure prima. Mannaggia. E poi altre avventure ne hai avute? Cose tipo quelle, no. Di altro tipo? Che tipo? Ma no, le solite cose, dai, in palestra, però così solo guardare. Pensa un po', io manco quello. E perché non ci vai in palestra? Guarda che ci si sta bene. Sì, lo so, però voglio la mia privacy. Cioè? Dai, cioè, non mi piace spogliarmi lì davanti a tutti. Ma tu non eri quello che faceva tutto. Dai, su, cioè a certe cose non ci sono abituato e boh, non credo che mi ci adatterei. Mai paura di spogliarti davanti agli altri, ma perché? Mannaggia, oh, quante domande che fai. Che Dai, dimmelo, mi sa che ho capito. hai capito? Ma statti buono. Vabbè, non insisto. Vabbè, insomma, su, cioè, hai capito? Ma è una questione di dimensioni. Ma no, cioè non hai capito proprio niente. È che se mi metto in un ambiente come quello, parto a razzo. Una volta ci avevo provato ad andare in palestra, ma già da quando uscivo di casa per andarci non riuscivo a trattenermi. Insomma, non mi voglio trovare in difficoltà. Ma scusa, tu come fai poi? Guarda, piano piano diventa una cosa così abituale che perde tutta la carica erotica, tutto sta a non avere paura che succeda, allora non succede. Ma quando mai? Beh, magari la prima volta è imbarazzante, ma dopo non ci fai più caso, però lì c'è pure tanto da vedere. Sì, lo so, e mi piacerebbe come andarci, ma tanto queste cose non le so fare. A meno che non me le insegni tu, ma tu stai lontanissimo. Lo so, che peccato. Ti posso chiedere una cosa? Me Dai. lo dai il tuo contatto MSN? Certo, ecco, te lo passo direttamente via Skype. Grazie. Ti scoccia se ti chiamo. Tanto vedrai che ti chiamo prima io. Stefano, adesso devo andare, però ci risentiamo, ok? Certo che ci risentiamo, anche domani sera, 21:30, va bene? Ok, 21:30. Grazie, mi ha fatto davvero piacere. Ma dai, che se avessimo fatto un po' di sesso in camera, ti saresti divertito di più. No. Insomma, dai, chissà, magari potremmo pure diventare amici. Certo, c'è la distanza. Sì, ma c'è pure Messenger. Per fortuna. Ci sentiamo. Ciao Stefano. Ciao Marco, buonanotte. Notte. Notte. Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro.